Capitolo 36. Questa è la discendenza di Esaù, cioè Edom. Esaù prese le sue mogli tra le figlie dei Cananei: Ada, figlia di Elon l'Ittita, Olibama, figlia di Ana, figlia di Sibeon l'Ivveo, e Basmat, figlia di Ismaele, sorella di Nebaiot. Ada partorì a Esaù Elifaz, Basmat partorì Reuel, e Olibama partorì Jeus, Jalam e Cora. Questi sono i figli di Esaù, che gli nacquero nel paese di Canaan. Esaù prese le sue mogli, i suoi figli, le sue figlie, tutte le persone della sua casa, le sue greggi, tutto il suo bestiame e tutti i beni che aveva messi insieme nel paese di Canaan, se ne andò in un altro paese, lontano da Giacobbe, suo fratello, poiché il loro bestiame era troppo numeroso perché essi potessero abitare insieme. Il paese nel quale soggiornavano non era loro sufficiente a causa del loro bestiame. Così Esaù abitò sulla montagna di Seir. Esaù è Edom. Questa è la discendenza di Esaù, padre degli Edomiti, sulla montagna di Seir. Questi sono i nomi dei figli di Esaù: Elifaz, figlio di Ada, moglie di Esaù, Reuel, figlio di Basmat, moglie di Esaù. I figli di Elifaz furono Teman, Omar, Sefo, Gatam e Kenaz. Timna era la concubina di Elifaz, figlio di Esaù. Ella partorì Amalek a Elifaz. Questi furono i figli di Ada, moglie di Esaù. Questi furono i figli di Reuel: Naat e Zerach, Samma e Mizza. Questi furono i figli di Basmat, moglie di Esaù. Questi furono i figli di Olibama, figlia di Ana, figlia di Sibeon, moglie di Esaù. Ella partorì a Esaù Jeus, Jalam e Cora. Questi sono i capi dei figli di Esaù: figli di Elifaz, primogenito di Esaù, il capo Teman, il capo Omar, il capo Sefo, il capo Kenaz, il capo Cora, il capo Gatam, il capo Amalek. Questi sono i capi discesi da Elifaz nel paese di Edom e sono i figli di Ada. Questi sono i figli di Reuel, figlio di Esaù: il capo Naat, il capo Zerach, il capo Samma, il capo Mizza. Questi sono i capi discesi da Reuel nel paese di Edom e sono i figli di Basmat, moglie di Esaù. E questi sono i figli di Olibama, moglie di Esaù: il capo Jeus, il capo Jalam, il capo Cora. Questi sono i capi discesi da Olibama, figlia di Ana, moglie di Esaù. Questi sono i figli di Esaù, che è Edom, e questi sono i loro capi. Questi sono i figli di Seir, il Coreo, che abitavano il paese: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser e Disan. Questi sono i capi dei Corei, figli di Seir, nel paese di Edom. I figli di Lotan furono Cori e Eman, e la sorella di Lotan fu Timna. Questi sono i figli di Sobal: Alvan, Manaat, Ebal, Sefo e Onam. Questi sono i figli di Sibeon: Aia e Ana. Questo è quell'Ana che trovò le acque calde nel deserto, mentre pascolava gli asini di suo padre Sibeon. Questi sono i figli di Ana: Dison e Olibama, figlia di Ana. Questi sono i figli di Dison: Chemdan, Esban, Itran e Keran. Questi sono i figli di Eser: Bilan, Zaavan e Akan. Questi sono i figli di Disan: Us e Aran. Questi sono i capi dei Corei: il capo Lotan, il capo Sobal, il capo Sibeon, il capo Ana, il capo Dison, il capo Eser, il capo Disan. Questi sono i capi dei Corei, i capi che essi ebbero nel paese di Seir. Questi sono i re che regnarono nel paese di Edom, prima che alcun re regnasse sui figli di Israele. Bela, figlio di Beor, regnò in Edom e il nome della sua città fu Dinaba. Bela morì e Jobab, figlio di Serach, di Bosra, regnò al suo posto. Jobab morì e Cusam, del paese dei Temaniti, regnò al suo posto. Cusam morì e Adad, figlio di Bedad, che sconfisse i Madianiti nei campi di Moab, regnò al suo posto e il nome della sua città fu Avit. Adad morì e Samla di Masreca regnò al suo posto. Samla morì e Saul di Rehoboth-Naar regnò al suo posto. Saul morì e Baal-Canan, figlio di Akbor, regnò al suo posto. Baal-Canan, figlio di Akbor, morì e Adad regnò al suo posto. Il nome della sua città fu Pau e il nome di sua moglie, Beeta-Beel, figlia di Matred, figlia di Mesaab. Questi sono i nomi dei capi discendenti da Esau, secondo le loro famiglie, secondo i loro territori con i loro nomi: il capo Timna, il capo Alva, il capo Jetet, il capo Olibama, il capo Ela, il capo Pinon, il capo Kenaz, il capo Teman, il capo Mibsar, il capo Magdiel, il capo Iram. Questi sono i capi di Edom secondo i loro insediamenti nel paese che possedevano. Questo Esaù era il padre degli Edomiti.